40 anni di arresa a Dio. Ho raggiunto la soglia dei 40 anni di conversione. Al di là che un numero pari produce sempre un certo effetto, dopo 40 anni di vita cristiana ho fatto esperienze che mi hanno dato di essere quello che sono. Poiché ritengo che ogni cosa possa essere di edificazione per il prossimo, desidero dare la mia testimonianza di come ho vissuto questo periodo. Per non dire di tutto in modo disordinato, divido le mie riflessioni in tre settori: la mia conversione, il mio rapporto con i fratelli in fede e il mio matrimonio. Iniziamo dalla mia conversione. Quando sono nato, non c'era nessuno ad aspettarmi. I miei genitori aspettavano la nascita di un bambino o di una bambina, ma non erano certamente pronti per un parto gemellare. Così, dopo la nascita di mia sorella, sorpresi tutti con la mia comparsa. Mio padre morì che avevo 13 mesi e mia madre, vivendo in grandi ristrettezze economiche, appena poté mise mia sorella in un orfanotrofio e quando ebbi 10 anni mi condusse in un collegio, a Monfestino di Serramazzoni, dove rimasi per tutto il periodo della mia istruzione scolastica. Tornai definitivamente con mia madre solo dopo il conseguimento della licenza di terza media. Fin da piccolo ho sentito la presenza di Dio. Un giorno, che ricordo ancora vivamente mentre giocavo con i miei compagni di scuola, spinto da un impulso irresistibile, mi appartai in un luogo solitario, fuori del recinto del collegio. Mi misi in ginocchio e pregai: «O Signore Dio, io so che Tu esisti, che hai creato il mondo e ogni altra cosa. Questo è meraviglioso, però io vorrei sapere chi sei. Ho un profondo desiderio di conoscerti». Conseguita la licenza della terza media, tornai a casa. Una sera, mentre tornavo da uno spettacolo cinematografico, alzai gli occhi al cielo e pregai: «O Signore, se Tu stasera mi offrissi qualunque cosa, io Ti chiederei di darmi sapienza. Io desidero conoscerti. Desidero capire la vita che sto vivendo. NIE, Nuovo Testamento e altro». Pochi mesi dopo, per la prima volta, entrai in una casa privata dove alcune persone, radunate intorno a un tavolo, leggevano la Bibbia. Quella sera non capii praticamente nulla di ciò che era stato spiegato, ma me ne andai con una sensazione strana. Stavo bene con quelle persone, perché avevano qualcosa di bello, che io non possedevo. Cominciai, così, a partecipare ai loro incontri. Passarono circa 2 mesi, e nel mio cuore pian piano si produsse una profonda convinzione. Avvertivo come una voce che mi sussurrava: «Sei un ipocrita. Vuoi tenere il piede in due staffe. O vivi per Dio, o vivi a modo tuo». Queste parole mi colpivano profondamente. Perché, se ci è un atteggiamento che non sopporto, è proprio la doppiezza. Contemporaneamente, avvertivo un'altra voce che mi diceva: «Ma no, è ancora presto, sei giovane e hai una vita davanti a te. Aspetta». Ma la prima voce non mi lasciava in pace, al punto che una sera, dopo il lavoro, mi chiusi in camera, mi inginocchiai e dissi: «Signore, io vorrei credere, ma sono giovane. Se affido la mia vita a te, come sarà il futuro?» Mi misi a piangere, perché volevo credere, ma non volevo pagarne il prezzo. Il giorno dopo, terminato il lavoro, tornai a chiudermi nella mia camera. Mi misi in ginocchio e dissi: «Signore, io vorrei credere, ma non capisco tante cose. Se capisco dopo sarò disposto a credere», ma la voce mi sussurrava: «Credi, dopo capirai». Piangevo, volevo credere, ma c'erano ancora dei ma. Il terzo giorno, ormai sfinito da questa lotta interiore, dopo aver chiuso a chiave la camera, mi inginocchiai e, piangendo, pregai: «O Signore, io voglio vivere per te, ma…» E lo Spirito di Dio mi fermava dicendomi: «Credi senza riserve, senza condizioni. Cedi la tua vita a me. Il tuo futuro, la tua gioventù, la tua intelligenza, la tua volontà, tutto deve essere mio. O vivi per Dio, o vivi a modo tuo». In me si era scatenata una tempesta. Pensavo, ragionavo, cercavo di comprendere, ma mi rendevo conto che stavo per impazzire con quella strana, meravigliosa confusione. Quando, ormai sfinito, giunsi veramente al limite della pazzia, o la realizzai. 1 Corinzi 3:18 pronunciai un'ultima preghiera. Mio Dio, sono stanco. Prendi la mia vita. Fanne quello che vuoi. Da oggi in poi non è più mia, ma tua. Metto il futuro nelle tue mani. Non capisco tutto, ma ti accetto come il padrone della mia vita. Immediatamente, la pace divina scese nel profondo del mio cuore, nella mia mente, nel mio corpo. Mi addormentai e non fui mai più preda di un sogno che facevo di frequente, cadere in una spirale senza toccare mai il fondo. Il giorno dopo tornai a lavorare e nessuno si accorse di ciò che mi era successo. Se ne accorsero solo in seguito perché cominciavo a parlare di Gesù come il mio Salvatore e Signore. Questa esperienza mi catapultò in un mondo tutto nuovo, nel regno di Dio. Mi resi conto di far parte di una grande famiglia, la famiglia di Dio. E questo per vari motivi. Innanzitutto perché il mio parlare di Gesù dava fastidio agli altri e non a coloro che mi avevano accolto come un fratello. Anzi, questi ultimi mi incoraggiavano a leggere la parola di Dio, a porre fede in Gesù, a testimoniare, a essere santo nella mia condotta. I figli di Dio dicevano ciò che già avevo nel mio cuore, e il mio amore per loro aumentava ogni giorno sempre di più. Mi rendevo conto di amare più i miei fratelli in fede che i miei parenti nella carne, senza però venir meno all'obbligo verso di essi. Mi rendevo conto di amare i miei familiari più di prima, ma era un amore che proveniva dall'amore che avevo per Dio. Desideravo la compagnia dei figli di Dio, la chiesa locale, nella quale mi recavo costantemente, era ed è un motivo di benedizione, di crescita, di servizio, di gioia e di paziente e istruttiva sofferenza. E, evidente, famiglia nuova, esperienze nuove. Ho messo subito al servizio della Chiesa i miei doni ed ho sempre dato il massimo delle mie forze. Ho cercato sempre il bene di tutti e, poiché vivevo bene la vita cristiana, ero fervente nel dare consigli per evitare loro dolori inutili. Ma con il passare del tempo ho compreso che stavo facendo un errore. Volevo a tutti i costi che gli altri non soffrissero. E poiché questo non lo vuole neppure Dio, ho dovuto ravvedermi. Ho compreso che ci sono persone che stanno bene nelle difficoltà. Altre, se non le hanno, le cercano. La famiglia di Dio è multiforme. Ci sono bambini e adulti, istruiti e ignoranti, sensibili e insensibili, sanguigni e flemmatici, romantici e realisti. Con questa varietà di caratteri e di personalità è impossibile avere una stessa visione e vederla tutti nello stesso modo. Perciò ho compreso che è possibile andare d'accordo solo se siamo mossi tutti da uno spirito d'amore. Il segreto di una buona vita comunitaria è vedere il diverso come un arricchimento e non un nemico o un intralcio, è vedere in ogni figlio di Dio un potenziale per migliorare la vita comunitaria. Così ho imparato a vivere e lasciar vivere, ho imparato a guardare più a me stesso anziché il piccolo difetto dell'altro. Il mio compito non è essere un censore, ma un testimone. Se il mio obiettivo è di essere di esempio, di non giudicare il mio fratello, ho tanto da fare che non ho materialmente il tempo di occuparmi di osservare il cammino degli altri. In merito al mio matrimonio, un dato di fatto è certo. Ogni coniuge ha virtù e difetti. Mia moglie è una donna saggia, coscienziosa, brava in cucina e nelle faccende domestiche, affettuosa. Queste virtù mi attirano verso di lei. E i difetti? Non è il caso di elencarli, ma una cosa è certa. I suoi difetti sono importanti per cementare il nostro matrimonio e il mio rapporto con Dio. Se le virtù di mia moglie mi attirano verso di lei, i suoi difetti mi spingono verso Dio. Con questo intendo dire che se avessi una moglie secondo i miei sogni sarei tentato di vivere molto più intensamente questo rapporto. Perché ciò che è piacevole mi attira tremendamente, per cui trascurerei il mio rapporto con Dio e la sua opera. Comprendo Pietro quando, trovandosi sul monte con Gesù, Elia e Mosè, non voleva più scendere. Inoltre devo ammettere che anche i rari ragionamenti insensati e Atteggiamenti sbagliati di mia moglie mi hanno sempre indotto a riflettere, portandomi a comprendere verità e aspetti della vita che non avrei potuto comprendere dalle sue virtù. Ad un certo punto del mio matrimonio ho compreso il valore della moglie che Dio mi ha dato. Le sue virtù sono molto importanti, ma i suoi difetti sono indispensabili. E, un po', l'esperienza che facciamo tutti. Quando leggiamo la Bibbia in un momento nel quale la vita scorre serenamente, abbiamo una certa comprensione di essa. Ma quando la leggiamo dopo aver attraversato periodi burrascosi e pesanti prove, ci sorprendiamo del fatto di comprendere la Scrittura in un modo più profondo. Eppure la parola di Dio non è cambiata. Così è della vita. Quando si ha un coniuge secondo i propri sogni, si tende ad essere sordi ai problemi matrimoniali altrui e non ricettivi su aspetti insoliti del matrimonio. Ma quando cerchiamo di convivere con un coniuge impossibile, da quel momento il matrimonio è un arricchimento e una sfida prima per noi, poi per il coniuge al quale possiamo trasmettere la gioia e la felicità di condividere la vita insieme. Il nostro bisogno più impellente, come coniugi, è di ricevere dalla Scrittura quelle certezze radicate che hanno il potere di agire sulla realtà. Se il nostro matrimonio è in crisi, molto probabilmente non abbiamo divorziato dai nostri sogni e non abbiamo accettato da parte di Dio che i difetti del nostro coniuge siano indispensabili per la nostra crescita e il nostro bene. Lasciamoci condizionare dalla parola di Dio, siamo riconoscenti a Lui e al nostro coniuge per tutto. Se lo si fa con un atto di razionalità, si ha tutto da guadagnare. Se lo si fa con fede, si sarà graditi a Dio e si otterranno dei premi impensabili. Ebrei 11, 6. Questo è ciò che ho imparato dopo 40 anni di vita cristiana. Non avrei voluto fare nessuna delle esperienze negative che ho fatto, ma riconosco che non sarei quello che sono senza di esse. Perciò, dopo 40 anni di vita cristiana, lo scopo della mia vita è sempre più tenere gli occhi fissi su Gesù Cristo, il mio Salvatore, e di servirlo con tutte le mie forze, e lasciare a Dio il diritto di usarmi nelle situazioni che a Lui pare bene che io attraversi. Maggio 2004, Ellero,